I giardini qua dietro sono intitolati al musicista Dionisi, no? E la casa è quella lì adiacente. Se la vede tanto dai giardini come al di là della chiesa, che confinava con la chiesa. Faceva tutto un corpo. Canonica della parrocchia di Borgo Sacco e la casa di Dionisi sono vicine. Quella casa là che si vede è casa di Dionisi.